nuova sfida. In gita, seguite la guida e non perdetevi nella foschia. Chi scala la diga, foga nella sfiga, riga sul cammino, in marcia verso un nuovo destino. Demoni che sbucano all'improvviso da tribù di paradiso. E io mi sbriciolo, ciò che dico è puro frutto di un delirio lirico. E l'influsso malefico di questo sito mistico ed empirico. Sono giunto senza seguito e ora medito, prevedendo l'esito incognito, probabilmente eretico e farnetico. Il mio viso ormai intriso da lacrime, segni di un dolore fisico. Gocce che mascherano falso sorriso, evidenziando un cuore schivo, frivolo e diviso. Tra ciò che è giusto, ciò che è sbagliato e ciò che non ho mai combinato. Alienato nel mio stato, troppo stanco per proseguire. È ora di decidere se vivere o morire in una dimensione dove le parole preferite sono quelle proferite per ferire. Intrappolato nel sottosuolo, circondato da dolore, solo tu per tu con il mio io di nuovo. Scovo alla ricerca dell'uomo che si cela nel corpo terreno, sperando ci sia davvero, capendo il senso di essere umano. Mi chiedo chi sappia davvero essere umano, qui dove il demone dell'odio è sovrano. Un tripudio insano di ripudio è tutto ciò che è umano. Nelle tenebre figure oscure, coscure scure sezionano con fervore ciò che ho mantenuto con ardore, custodito con tutto il cuore, cercando tutti i costi di intaccare l'onore. Corare borie su varie storie, astensione da care gioie, per sempre in un labirinto di noie e perdizione. Stare dove le amare prove di non reazione, scarsa passione, sono l'ordine e la ragione. Perso l'obiettivo primo di missione, non ho più ragione di continuare in questa direzione. Sangue, lacrime, placide, scheletri e testi, l'immagine e cinque lettere sulla mia lapide. Scendendo salite ripide, strade infide, contornate da presenze viscide ed insipide. Ombre limpide, punto l'indice verso la luce proveniente dalle viscere, per vedere quanto a lungo il mio ego riesce a resistere. Esistere, nulla di incredibile, sopra sotto ora tutto è possibile. L'evoluzione, combattendo i demoni nella mia mente, l'estinzione dell'odio in questo frangente. Zero arrese, cellule offese, spasmi da parti lese, calmi ma con le unghie sempre tese, terminando le imprese, rendendole sempre più concrete. Sconfitti i demoni, ora solo trofei sulla mia parete. Se mai non ci provate, quando mai riuscirete? Sopra sotto click 2002.